Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. In questa giornata, serata ormai un po' surreale, naturalmente il riferimento è a caos che è uscito dalle urne, parliamo di crowdfunding, ovvero di una forma di finanziamento dal basso che raccoglie tanti piccoli contributi da parte di privati cittadini anziché rivolgersi ai circuiti tradizionali del credito. È da poco tempo che questa forma di finanziamento, il crowdfunding, è stata regolata, pochi mesi, e lasciatemi dire come battuta che se va avanti così sarà anche l'unica forma di finanziamento che resterà in piedi. Ma insomma, battute a parte, ciò di cui ci occuperemo questa sera è uno dei primi casi in cui una pubblica amministrazione punta su questo strumento, che è nato come strumento di autofinanziamento tipicamente di società come startup, società innovative. Ebbene, qualche pubblica amministrazione ci sta provando invece per finanziare delle iniziative pubbliche. La nostra Chiara Alvicocco in particolare ha scovato il caso di Ladispoli, un comune del Lazio, 42.000 abitanti che quasi raddoppiano d'estate quando si arriva a parlare 109 lingue in questo comune vacanziero in riva al mare, e con un assessore intraprendente, un giovane assessore alle politiche culturali, Francesca Paola Di Girolamo, che è stata ascoltata proprio dalla nostra Chiara Alvicocco. Sentiamo. Un comune come Ladispoli, in costante crescita, multietnico e vivace, ha bisogno necessariamente di uscire da una dinamica, se vogliamo anche di provincialismo culturale, e di rilanciarsi in una dimensione molto più ampia. Questo appunto sia per far fronte ai tagli, ma anche per uscire dalle secche di una gestione, cosa che accade purtroppo molto spesso, abbiamo avuto esempi a tutti i livelli, ma accade nelle realtà comunali, nel piccolo, quasi clientelare, diciamo, del settore culturale, che non permette una crescita complessiva ma che si limita all'offerta di semplici eventi. Il crowdfunding per noi può essere una delle diverse risposte da mettere in campo proprio per far fronte a questi tipi di esigenze e necessità. Ci spieghi un po' come funziona. Avete fatto una specie di chiamata ai vostri cittadini per poter sostenere in qualche modo alcune iniziative culturali. Quali sono e qual è il consenso che avete raccolto? Allora, l'attenzione è stata da subito molto alta, soprattutto da livelli culturali dei target, diciamo, anche della nostra città, piuttosto specifici, e anche al di fuori della nostra città. Ladispoli è una città che vive una grande migrazione verso l'interno, ma anche esterna, quindi molti cittadini che erano di Ladispoli ora vivono all'estero, vivono fuori dall'Italia, e quindi questo può essere uno strumento estremamente interessante anche per loro, per creare una nuova connessione con la nostra città. In estate la popolazione raddoppia, quindi abbiamo pensato di iniziare a mettere in campo lo strumento del crowdfunding, chiedendo un finanziamento dal basso, come dicevamo appunto all'inizio, su dei workshop che saranno alla base di una progettualità annuale di street art, ossia di arte in strada, l'arte decentrata portata all'interno dei vari quartieri della nostra città. Quindi inizieremo da questo, dei workshop. Quindi cercate in qualche modo di valorizzare il fermento, ecco, come dire, culturale, quindi la street art e le diversità etniche e culturali, però lo fate in un modo per cui anche il cittadino è attivo nell'organizzazione anche della parte formativa, è molto bello, del workshop proprio, cioè li aiutate ad organizzarli proprio. Assolutamente sì, anche perché attraverso il crowdfunding il cittadino interessato, ma anche il cittadino proveniente da un'altra realtà italiana o europea, può in qualche modo preaderire a questo tipo di iniziativa. Nel momento in cui si raggiunge la quota stabilita dal progetto di crowdfunding, può avere luogo l'iniziativa, e a questo punto ci si può anche fare un'idea preventiva di quanto appeal abbia quel tipo di iniziativa, quindi diventa uno strumento anche molto importante per selezionare in qualche maniera, per andare a individuare quali siano gli eventi di maggiore spicco e di maggiore impatto sulla città. Gli eventi che volete organizzare, i workshop, e poi intesi anche come un futuro magari festival, un'organizzazione culturale, un'iniziativa più grande, comunque sono tutti volti alla valorizzazione di questo fermento, quindi avete pensato alla street art, alla valorizzazione anche in qualche modo del territorio che avete a disposizione. Assolutamente sì. Sì, anche appunto per conformazione geografica la Dispoli è vicinissima a Roma, è una città di mare, quindi una città estremamente aperta anche dal punto di vista sociale, e essendo una città di nuova urbanizzazione a poco più di 100 anni, abbiamo pensato che la street art, l'arte in strada, la riqualificazione urbana, la danza di strada, quindi l'hip hop, potessero avere veramente, trovare terreno fertile nel territorio di La Dispoli. Mm. Quindi partiremo da questo, trovando già delle basi molto importanti nel tessuto della città stessa. E come hanno risposto i cittadini? Ci sono state risposte contrastanti da questo punto di vista, quindi appunto la fetta, diciamo, delle generazioni più giovani impegnate culturalmente è stata molto favorevole a questo tipo di iniziativa e pronta soprattutto a confrontarsi con questo nuovo strumento, mentre in altri ambienti abbiamo trovato alcune resistenze, soprattutto legate appunto a una concezione secondo cui la cultura deve essere finanziata dall'ente pubblico e non dovrebbe chiedere supporti esterni. Beh, certo che se per le piccole società private, le start-up che si propongono di raccogliere finanziamenti col crowdfunding si pone un problema di trasparenza, per le pubbliche amministrazioni invece si pone sicuramente un problema di opportunità. Per esempio, non sarebbe facile mandare giù l'idea che il comune apra una procedura di crowdfunding per finanziare dei servizi che dovrebbe già finanziare con le tasse. Ecco, questo sarebbe inaccettabile, ma certamente tutta una serie di eventi, e quelli culturali si trovano un po' come dire sul confine, e potrebbero invece essere utilmente finanziati anche dalla pubblica amministrazione con questo strumento. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.